America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24, Happy 2014, è la prima puntata del 2014 e ho con me ai microfoni di America 24, una nostra vecchia conoscenza, Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa. Buongiorno Maurizio. Buongiorno e buon anno Mario. Buon anno sì, Maurizio, un 2014, devo dire, gli anni poi si rincorrono, però nel tuo caso questo 2014, credo possiamo dirlo ai nostri ascoltatori, è un anno di cambiamento più importante rispetto ad anni passati, perché è stato già annunciato, quindi non credo di rivelare alcun segreto. Maurizio Molinari, corrispondente storico della Stampa dagli Stati Uniti, pilastro della nostra comunità giornalistica italiana in America, ha deciso di trasferirsi, di andare a Gerusalemme per diventare il corrispondente del Medio Oriente, basato a Gerusalemme, ma con un raggio d'azione che riguarda un po' tutta la regione. Però con te, visto che stai già pensando al dopo e sei in una fase di distacco dal passato, vorrei parlare delle prospettive di Barack Obama. Stiamo cercando di dare un po' uno spaccato in questi giorni su cosa sarà il 2014. Io direi, cosa sarà il 2014 per Obama? Il 2013 è stato un anno da dimenticare, e il 14? Sarà l'anno nel quale ci sarà di fatto il passaggio delle consegne a Washington sotto i riflettori fra Barack Obama e Hillary Clinton. Barack Obama va incontro alle ultime elezioni, che sarà da leader del Partito Democratico, le elezioni di midterm per il rinnovo parziale del Congresso a novembre. I democratici in questa campagna elettorale tenteranno di allontanarsi il più possibile da un presidente in calo di popolarità. Ci sarà probabilmente l'affermazione di nuovi volti, ma la grande attesa, come dice Tony Podesta, che è l'importante lobbista di Washington, è per quello che annuncerà o farà Hillary subito dopo la fine della campagna elettorale. Tutti aspettano che lei sciolga la riserva. Qualche settimana fa, parlando con Barbara Walters, Hillary ha detto che lei la scioglierà non nel 2015 ma nel 2014, cioè significa alla fine dell'anno, e nel momento stesso in cui Hillary dirà corro o non corro, l'America politica cambierà immediatamente. Passeremo da una difficile fase terminale della politica di Obama alla possibile nuova alba di Hillary Clinton. Ecco Maurizio, l'alba di Hillary Clinton, però insomma questo presidente ha ancora 3 anni davanti a sé, insomma rischiano di essere degli anni di sofferenza. Hai parlato di Tony Podesta, il lobbista, ma il fratello John Podesta è tornato a lavorare col presidente per aiutarlo, per consigliarlo. Ricordiamolo, fu capo di gabinetto con Bill Clinton, fu il capo della transizione per cercare un po' le nomine che doveva fare Barack Obama. Quindi un uomo di una certa influenza a Washington, molto vicino a questo presidente, ed anche un ponte coi Clinton. Riuscirà a rimettere in piedi questa presidenza? Ma se andiamo a vedere cosa c'è scritto nel libro del 2014 del presidente Obama, sicuramente in cima alle priorità c'è la riforma dell'immigrazione, da lui più volte promessa e a questo punto determinata a portarla a compimento per legare ancor più l'elettorato ispanico al Partito Democratico. Poi ci sono i due grandi accordi sul libero commercio, al quale lui ha legato la legacy della sua presidenza sul fronte dell'economia internazionale, sullo scacchiere del Pacifico e su quello dell'Atlantico, e qui ci riguarda direttamente perché l'Italia avrà la presidenza di turno nel secondo semestre dell'Unione Europea, e poi la volontà di creare stabilità in Medio Oriente, la Siria, l'Iran, l'Arabia Saudita. Quindi sarà un presidente, credo, molto impegnato ancora sul fronte interno con questa forte proiezione internazionale. E poi dobbiamo dircelo, perché il nostro pubblico, un pubblico italiano che ha molto a cuore i valori e le cronache della Chiesa, Barack Obama vuole incontrare Papa Francesco. Ancora non sappiamo se questo primo incontro avverrà a Roma, forse in giugno, quando il presidente è in animo di fare tappe in Europa, oppure negli Stati Uniti, ma sicuramente in cima ai suoi desideri, cioè l'incontro col Papa che si batte contro le diseguaglianze, esattamente come Barack Obama fa in casa. Ecco, è accennato al viaggio in Europa, sarà più volte in Europa Barack Obama in questo 2014, chissà, forse passerà anche dall'Italia, visto che c'è un anniversario importante, quello della presa di Roma, della liberazione di Roma, ma il suo rapporto con l'Europa è sempre stato un rapporto un po' teso. Sotto un certo punto di vista, però, io credo che Obama possa dire di aver vinto su un fronte, e cioè su quello della ripresa economica, nel senso che l'economia va bene, la crescita c'è, l'occupazione c'è, il disavanzo pubblico è diminuito sul prodotto interno lordo e si è permessa all'amministrazione Obama di attaccare la Germania. La Germania strangola l'economia degli altri paesi che fanno parte dell'euro, l'America apre le finestre e porta aria fresca. E beh, insomma, questo non è un risultato da poco per Barack Obama, ma credi che riuscirà a convincere la Germania in uno di questi viaggi a darsi una mossa, a imitare il modello americano che ha portato occupazione e benessere? Ma la scommessa di Obama è riuscire in questo, puntando molto sull'information technology, ma ancora più sul commercio e la liberalizzazione degli scambi. Obama vuole, punta a siglare un patto di lungo termine con Angela Merkel, fra le due economie più floride del mondo occidentale. L'interrogativo è quanto la Merkel vorrà rinunciare su dei propri assiomi sulla politica dell'austerity per siglare questo patto con Obama. E sotto questo punto di vista Obama punta a staccare la Germania dall'abbraccio con i BRICS e le economie emergenti, a cominciare dalla Cina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, voglio aprire il nuovo anno, buon anno naturalmente, non ci stancheremo mai di dirlo, l'ho detto prima, lo ripeto, felice 2014. Voglio aprire il nuovo anno con i tradizionali consigli musicali di America 24, e cioè le band da tenere d'occhio in questo 2014, in questo nuovo anno. Spero che tutti abbiate festeggiato anche con le musiche americane. Jordan Lee, un mutual benefit, il suo nome d'arte, è un cantatore, vi dicevo, che con il suo album di debutto Love's Crushing Diamond si è affermato come la nuova star del folk alternativo americano. Mutual Benefit, Advance Falconry. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!